posizione di Daniele, evidentemente, innanzitutto è di cordoglio e di sostegno a un popolo straordinario che sta facendo fronte ad una tragedia immane che non ha precedenti. Per quanto attiene invece alla gestione del problema nucleare, c'è da rimarcare che il Giappone è il paese con la maggiore presenza di impianti nucleari, ce ne sono 52, 51 hanno reagito in maniera corretta a questo evento, staccandosi e raffreddandosi di dovere. Purtroppo uno di questi ha avuto non soltanto il terremoto a cui ha resistito brillantemente, ma anche lo tsunami che ha purtroppo eliminato i sistemi ausiliari di mantenimento del sistema di raffreddamento. I colleghi stanno lavorando, mi sembra che sia doveroso aspettare che il loro lavoro dia, come tutti noi speriamo, il risultato positivo che ci aspettiamo. Noi impareremo evidentemente ancora qualcosa, come è normale che sia, ce lo impone la normativa di sicurezza internazionale per utilizzare anche questa eventualità di catastrofe che si è palesata in Giappone per imparare a far meglio anche i nuovi impianti che dovremo fare con nuove tecnologie che hanno sia il sistema attivo che passivo di sicurezza ampiamente sviluppate, in maniera da poter resistere anche a eventi di questa natura. Da un punto di vista emotivo, secondo lei questa tragedia in Giappone potrebbe influenzare il percorso dell'atomo in Italia, per esempio spingendo a un referendum sul ritorno al nucleare? Un referendum già esiste per evitare il ritorno al nucleare, è stato promosso da quelle parti dell'opinione pubblica italiana che sono contrarie. Io ritengo che sia non corretto ragionare sulla base dell'emotività. Sulla base dell'emotività di Chernobyl abbiamo deciso di abbandonare il settore nucleare, che era un settore promettentissimo e anche estremamente competitivo in Italia, e ne abbiamo pagato le conseguenze con le scelte che abbiamo dovuto fare poi di rivolgersi al petrolio, agli idrocarburi, al gas, con dei costi successivamente molto più elevati dell'energia rispetto a tanti altri paesi che invece hanno scelto di mantenere il nucleare per sé. Parlo di paesi a noi vicini, la Francia, la Svizzera, la Germania, non parlo di paesi lontani. Vorrei che non facessimo lo stesso errore di reagire in maniera emotiva di fronte alle prime evidenze, non guardando il fatto che per 51 dei 52 impianti, nonostante il grande evento catastrofico che ha colpito il Giappone, gli impianti nucleari hanno continuato a mostrare in tutta la loro capacità la sicurezza e l'affidabilità. Lasciamo che i nostri colleghi lavorino sperabilmente a risolvere in maniera positiva il problema del 52esimo impianto che ha subito anche non soltanto il terremoto ma anche un maremoto di dimensioni epocali, apocalittiche, e poi tireremo le conseguenze imparando anche da queste evidenze.